pensare a come stai. Se la tua notte incontra il giorno e tu non hai dormito mai. E come posso fare a meno di pensare a come va? Se tu ti perdi a dare un senso a ciò che un senso non ha. E c'è un disordine geniale fuori e dentro casa tua. E nel disagio che nascondi c'è tantissima poesia. Ma se il presente non ci inganna non saremo mai migliori. E nel presente impareremo a non sentirci più stranieri. Ma come posso accendere fiammiferi per te se nevica, se piove nevica? Ma come posso dire che e poi promettere che ha un fascino stare in bilico? Ma come posso accendere fiammiferi per te? Non sarò luce quando manca luce ed elettricità. Non sarò neanche il capolinea della tua tranquillità. Ma solo un uomo che si prende gioco e cura di te. Quando la notte è troppo lunga e una ragione, mi credi, non c'è. Ma come posso accendere fiammiferi per te se nevica, se piove nevica? Ma come posso dire che e poi promettere che ha un fascino stare in bilico? Ma scusa se cerco parole davanti al tuo silenzio che è un vicolo cieco. So fare solo questo e per quanto sia poco non lascerò che tutte le tue zone d'ombra ti portino via. Come posso accendere fiammiferi per te se nevica? Lo vedi, piove e nevica. Ma come posso dire che e poi promettere fascino stare in bilico? Ma come posso accendere